il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Sta arrivando l'estate, tra circa 2 settimane ci saremo anche proprio fisicamente seguendo il calendario e vorremmo parlare di turismo, ma di turismo sostenibile. Già ne abbiamo parlato in alcune trasmissioni quest'anno più volte, oggi lo facciamo con Pietro Casetta, geografo, giornalista e autore di un itinerario che si chiama Padova Originale, che anche di turismo sostenibile viene a incrociare un po' questo tema perché parla di navigazione fluviale, ma con lui vorremmo parlare di turismo sostenibile un po' più in generale, per esempio sicuramente turismo sostenibile è quello a piedi e anche quello ciclabile. Intanto benvenuto Pietro. Grazie, grazie a tutti voi e grazie a te. Ecco, la parola turismo sostenibile cosa ti fa venire in mente, a te che ti occupi da tanto tempo di turismo? Ma guarda, mi fa venire in mente quantomeno 3 aspetti del turismo, che sono il turismo a piedi, quindi itinerari proprio che si possono fare soltanto a piedi o preferibilmente a piedi, e il turismo in bicicletta, che in questo momento, in questi anni, sta veramente prendendo piede in Italia in maniera direi molto forte. E poi naturalmente il turismo in barca, non soltanto il turismo in canoa o comunque barche piccole da 2-4 persone, ma anche il turismo in barca con barche di dimensioni più grandi e addirittura non inquinanti. A Padova ne abbiamo una che è la Delta Nova Zero Emissioni, così chiamata, proprio perché emissioni non ne dà, dal momento che è una barca interamente elettrica con capienza 70 persone e un'autonomia di viaggio che devo dire consistente, perché se con una barca del genere si può fare quasi tutta la Riviera del Brenta, praticamente tutta la Riviera del Brenta, direi che l'obiettivo è stato centrato. Ecco, una volta per cercare di essere originali si andava sempre più lontano, magari in cerca di avventure. Adesso un turismo che cerca di essere originale punta molto, non solo penso per la crisi economica, a ciò che c'è vicino a casa, ma visto con occhi diversi. Sicuramente andare a piedi, andare in bicicletta o andare per barca ti porta a prospettive diverse, a scoprire anche cose diverse. Sì, infatti, secondo me il turismo lontano è un turismo che sta venendo un po' meno, secondo me sta conoscendo una battuta d'arresto, ma non solo per la crisi economica, ma perché il turista in questo momento chiede altre cose, chiede per esempio una visione critica del territorio. Ecco perché io ho pensato e ho dato vita a questi miei itinerari che ho chiamato Padova Originale. Sono itinerari soltanto su Padova per il momento, ma già si pensa di esportare l'iniziativa anche ad altre città, comunque ad altre situazioni. E l'originalità qual è? È una nuova chiave di lettura del territorio, insomma non più la solita chiave storico-artistica fatta di nomi, di date, di cose, di nozioni magari lette, ripetite, lette dai libri e ripetute, ma guarda, ti dico soltanto lo slogan è niente nomi, niente date, niente spiegazioni libresche. Insomma, quello che il turista, secondo me, in questo momento sta cercando sono delle emozioni, ma non emozioni velleitarie fine a se stesse, semplicemente delle emozioni che gli possono far capire e trattenere quello che capisce proprio del territorio che sta visitando, anche paragonandolo con il suo. Quindi una visione critica che gli dica i motivi per i quali il territorio parla in questa maniera, non sempre bello, ma insomma sempre in maniera molto interessante. Ecco, però forse c'è bisogno anche di ripensare un po' la nozione di turismo. Spesso anche le istituzioni, quando dicono promuoviamo il turismo, pensano a chi viene da fuori, magari i turisti da molto lontano. Adesso anche per l'Expo si dice è una grande occasione per far conoscere l'Italia nel mondo, va benissimo, però soprattutto questo tipo di turismo forse dovrebbe coinvolgere chi vive vicino a casa, cioè forse si fa un po' poco per chi vive queste terre, forse sono i primi che dovrebbero imparare a conoscerle. Guarda, tu hai centrato in pieno l'obiettivo corretto, cioè il turismo appunto lontano è un turismo senza dubbio che va perseguito, ma non è l'unica forma di turismo. La questione Expo 2015 e la questione di ciò che le istituzioni stanno facendo, non soltanto per l'Expo, ma per il turismo, parliamo naturalmente del turismo in Italia. Sì, io posso dire si stanno facendo molti progetti, anche molte chiacchiere, e io da parte mia ti dico, la domanda di turismo che c'è adesso io cerco di affrontarla semplicemente offrendo quelle cose che già ci sono, perché parliamoci chiaro, in Italia investire sul turismo, secondo me, sul turismo sostenibile, però secondo me è un affare, è un business non indifferente, perdona questa visione molto economica, però è così. E la realtà è questa, che in Italia e a Padova, nel caso mio, nel caso di Padova originale, gli oggetti da mostrare, gli oggetti da far visitare, i monumenti, le mostre, i musei, i parchi, ce ne sono a bizzeffe. Quello che manca è il fatto che non sono valorizzati adeguatamente dagli enti pubblici. A questo come si risponde? In maniera molto semplice: dove l'ente pubblico aiuta, naturalmente si accetta l'aiuto, ci mancherebbe altro, ma dove non aiuta, questo non impedisce comunque al tour operator o comunque a chi l'iniziativa turistica la propone, questo non impedisce comunque che il monumento possa essere visitato e fruito dal turista. E quello che si chiede all'ente pubblico è che il monumento sia aperto, questo senz'altro. Ma pensiamo al Prato della Valle a Padova, e insomma, per visitarlo non serve nessun ingresso, è lì, certo. Non è aperto di suo. E come il Prato della Valle ce ne sono a bizzeffe proprio di monumenti e di luoghi che basta soltanto recarcisi per visitarli e farsi accogliere proprio dal monumento stesso. Ecco, ci fermiamo per qualche minuto, a tra poco. Il quadrifoglio: consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Oh, Torniamo in linea con la trasmissione del Quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di turismo sostenibile, lo stiamo facendo con Pietro Casetta, geografo e giornalista e autore di un itinerario che si chiama Padova Originale. Ecco, l'originalità la si trova sia nelle città sia nelle campagne. La nostra trasmissione si occupa anche un po' di agricoltura e ambiente e vorremmo capire come si concilia il turismo con la salvaguardia anche ambientale. Sono due termini che spesso sembrano in contrapposizione. Sì, sono in contrapposizione per come il turismo è stato vissuto fino a questo momento. Sì, certamente che turismo di massa e salvaguardia, quando per massa intendo la nave da crociera con 5.000 persone a bordo, ecco, e turismo di massa e salvaguardia ambientale, insomma, è un concetto che tende a stridere parecchio. La cosa interessante però è questa, che il turismo di massa in questo momento sta auguro che comunque non, le difficoltà siano relative, perché comunque è qualcosa di che è comunque uno strumento per far conoscere il territorio, ma potrei raccontare aneddoti finché vogliamo di proprio richieste che mi vengono fatte, non di turismo di massa ma di turismo proprio singolo. Un'agenzia di Milano mi ha chiesto: guardi, per noi il turismo è fatto, è quello familiare, per noi 6-8 persone al massimo, ma proprio al massimo, questo è il nostro target. Lo stesso l'ufficio turistico della provincia di Padova, stessa richiesta, cioè date fisse per i giri di Padova originale, in maniera tale che siano turisti di 2, 3, 5 persone, una persona che possono usufruirne. In questo caso turismo e salvaguardia ambientale, beh, direi che si compenetrano perfettamente, anche perché i turisti, contrariamente a quel che si pensa, sono molto rispettosi dell'ambiente, quando naturalmente sono selezionati in funzione dell'interesse e non in funzione soltanto dell'introito economico che devono portare. Insomma, interesse loro, intendo l'interesse del territorio. Certo. Ecco, per avere informazioni sul turismo sostenibile immagino che basta fare un giro su internet, digitando questi nomi si troverà di tutto. A questo punto concludiamo la trasmissione dando l'indirizzo del sito internet di Padova Originale e magari anche qualche anticipazione oppure una piccola chicca che voi promuovete con il vostro itinerario. Grazie. Sì, l'indirizzo è www.padovaoriginale.it e lì si trovano tutte le informazioni. La chicca è la presentazione che abbiamo appena fatto, ma che è andata benissimo, di un itinerario che è intitolato Le architetture del XXI secolo a Padova. Tutta architettura contemporanea in riva al Piovego, dalle porte contadine alla golina di San Massimo, e in cui si vedono soltanto esempi, secondo me, molto belli, non tutti, alcuni no, ma la maggior parte sono esempi veramente meravigliosi di architettura contemporanea in una città come Padova, che ha oltre 3.000 anni di storia, e sono architetture che comunque non disturbano o disturbano in maniera molto relativa il territorio e il paesaggio. Grazie. A te e a voi. E concludiamo la trasmissione con alcune brevi notizie. Lo scorso 26 maggio sono stati inaugurati a Chioggia i lavori curati dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione nell'ambito dell'accordo di programma per la salvaguardia ambientale del bacino del Lusenzo nella laguna di Venezia. È stato realizzato un grande canale con golene lungo circa 2 km, largo da 5 a 15 metri, in grado di invasare circa 50.000 metri cubi d'acqua, regolato da un impianto idrovolo terminale con scarico nel fiume Brenta. Le opere realizzate a Chioggia hanno l'obiettivo di creare spazio all'acqua per evitare gli allagamenti a sottomarina e migliorare la qualità ambientale dell'area. L'aglio bianco polesano DOP è l'aglio del Quirinale. È stato scelto infatti dallo chef Fabrizio Boca, capo cucina del segretariato generale della Presidenza della Repubblica, per condire i piatti che escono dalle cucine presidenziali. Pare che il nostro prodotto sia molto gradito al Quirinale e per noi ovviamente è un motivo di grande orgoglio e soddisfazione, spiega Claudio Salvan, presidente della cooperativa El Polesine, la maggiore produttrice di aglio bianco polesano. che precisa poi: siamo stati contattati l'anno scorso, abbiamo inviato il prodotto per l'assaggio, poi è cominciata una modesta fornitura ed ora ci hanno rinnovato il contratto. Faremo 3-4 consegne l'anno con carichi di una ventina di chili di trecce da mezzo chilo l'una. L'aglio polesano DOP, lo ricordiamo, è l'unico aglio a denominazione protetta e si contraddistingue per il colore bianco lucente, l'elevata resa in sostanza secca che lo rende ben conservabile e il particolare profilo aromatico meno pungente e più persistente. Infine una notizia di montagna, la settimana nazionale dell'escursionismo del CAI si svolgerà dal 28 giugno al 6 luglio prossimi lungo i sentieri che attraversano le valli del Cadore e dell'Ampezzo ai piedi delle cime più belle delle Dolomiti. A organizzarla saranno le 10 sezioni cadorine e quella ampezzana del Club Alpino Italiano. E si svolgerà lungo 39 itinerari, 76 escursioni a piedi, circa 10 ogni giorno e 12 mountain bike, sia per turisti che per camminatori esperti. Vogliamo permettere agli escursionisti, soprattutto a coloro che arriveranno da fuori regione, di vedere percorsi non pubblicizzati ma che mostrano l'essenza e la genuinità della montagna, ha sottolineato il presidente generale del CAI, Umberto Martini. Oltre al Dolomiti e ai suoi paesaggi, sarà promossa anche la cultura, i prodotti enogastronomici e la storia, in modo da promuovere il territorio a tutto tondo. Anche per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima, ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato Il Quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.